Avanti il bip, chi è? Marco, sei tu col bip? Buonasera, non c'è nessuno? Cambio! Il cupedini! Chi è avanti? Voilà, buonasera, ben sentito, allora, come va? Ciao G. Bene, e tu? Tutto a posto. Tutto bene, sono uscito a lavorare, sdocciato. Che saluto qualcuno, se c'è qualcuno, là. Ehi, qualcuno, di tanto in tanto qualcuno già si sente, ma non più di tanto, però ormai è finito, non c'è più nessuno, si può dire. Adesso d'inverno già esce la gente, adesso ancora in giro, adesso già riprendono piano piano tutti quanti. Ma può darsi, ma non credo però più di tanto, sempre le solite persone, due, tre, ma poi 10 minuti e poi chiudono, non c'è più nessuno, non è più come una volta, la gente ormai si è stancata, non ha più voglia di parlare al baracchino. Oramai la gente è così, dai, presi dai telefonini, da altre cose, da altre situazioni, fin quando c'è qualcuno io ci provo sempre, poi quando non c'è nessuno, niente, già rimane qua, sto qua, non lo vendo. Che problemi ci sono? Tanto se lo vendi non è che risolvi il problema, problemi non ne hai, per cui cosa te ne frega? Ma se anche uno avesse problemi, si vende l'apparecchio, che cosa fa? Che cosa risolve? Niente non risolve. Bisognoso era prima e bisognoso rimane, non è che... Ma non è naturalmente il tuo caso, come non è il mio, per dire, no? Ma è un po' per tutti così. Piano piano, quando sentono a me, sentono a te, sentono un altro, già le viene la voglia di entrare. Ma può darsi proprio, ma non credo che ci sia poi tutta questa voglia. Ormai la gente, sì, magari può capitare il momento che se sento due, tre, quattro persone, ma non è certamente un luogo come prima, assiduo alla gente tutti i giorni, tutte le sere, di solito alla solita ora, ma adesso non gliene frega più niente a nessuno. Non è che non gliene frega niente, che sono altri impegni, altre cose, capito? Però non riescono a ritagliare il tempo per poter parlare all'apparato. Può darsi che sia così, può darsi che mi sto sbagliando, ma ho la sensazione che ormai no. Siamo tutti adulti, capito? Ci siamo tanti anni in frequenza, perciò ormai la passione, diciamo che sta andando e scemando, non è come prima eravamo giovani, tutti ragazzi, dunque è al riverso. Ma oggi come oggi non c'è più quell'attaccamento alla radio come era prima in passato. Vabbè, sono cambiati i tempi, dai giù. Oh, scusa un attimo che hanno citofonato, un attimo, va. Se non riprendo lì ti salutato che hanno citofonato, un attimo, ciao. Ok, ciao G, ciao, alle prossime. Speriamo di risentirci, ciao.